la mia bella, in qualità mal che se tornare, il fin della vettoria voglio. Piccole giovi che mette nel tempio, la tre mesi ogni festa, la sua dimora, in un remoto calle, misterioso l'uom vedrà di notte. E sa con lei chi si eravate su? La gnora. Quante metà, mirate, le vince tutte di cembra la sposa. Dove il conto tu? A me che importa? D'altre bocchia. La sventura per me, certo sarina. Questa quella per me pari solo a quant'altre d'intorno, d'intorno mi vedo. Del mio cuore l'impero non c'è, lei ha nulla che ad altra bella. La costola avvenenza è quel dono di che hai fatto le più la vita. Soci questa mi torna la vita, forse l'altra, forse l'altra, la bella sarà. La costanza che grande le pole ne siamo, quel morbo crudele, sol chi vuole si senti felino, un valore se non ve libertà, de mariti geloso furore, degli amanti le semanie. Falconario, dice tutti di spiro, se mi punge, quella qualche metà. cupido si è trasformato e lo so, cupido, cupido beato. A più di sembrare quanto non ve la cara sua sposa è un angel per me. Repiterà. M'è detto, mai farlo. Stasera. Non pensi tu al conte? Non c'è la prigione. Alà. E me, Cecilia. E me lo buffone. Allora, allora la testa. Con l'anima nera. Tieni questa testa. E me la tuare, e parti con la testa, la cosa è la pare. Marrone, fermate. E vieni qua. Fuori un lato. Fuori qua. Fuori un lato. Fuori un lato. Fuori un lato. Assente il vento spingiti. Così dei davanti siamo. E troppo spingiti. Thank you. Yeah. Thank you. avrei.

Sole dell'anima, la vita e amore, sole. tanto buio, lo sguardo è nullo. Vide Caduce, e temo il posa, torre accennato, Mariam la sposa. E non è respiro, ma come fare? La vostra chiave, tanto vitale. Poteva farci nostra faccenda, ecco la curare. Sento il suo stemma, a terror vano, fu dunque il mio, e là il palazzo, a quel solino, sia una strada, e io vorrei a me buona verna, si pronterà, terra e la spada, vinta in la terra. La venta c'è come sotto il po', ha ha ha! vita, come fu? Yeah. nascosta. Guardate come inquieto. Laran, laran, laran, laran, laran, laran, laran, laran, laran, laran, laran, laran, laran, laran, perdón.

quanto a fare riesca. Lasciare potremo quest'aura funesta. Sì. E tutto un sol giorno mangiare potere. Oh, può guarirne t'ho lasciato. Io t'amo. Povero cuor di donna, hai vile infame. Ma ne avrai vendetta, Ogilda. Pietà, mio padre. E se tu certa fossi che ti tradisse, l'ameresti ancora? Non so, ma pur m'adora. Egli? Sì. Ebbene, osserva dunque. Per poco attendi. Oh, padre mio! Due cose e costo, quali la stanza e del vino, son questi suoi costumi, quel bel giardino. Thank you. la bella mano candida. Scherzate voi, signore. Non la so brutta. Abbracciami. Una donna ardente. Sì, indipendente. Mi piace quanto vuole. Non ho chi lo sposare. Basta ancor. E non ti lasci ancor. E non ti lasci ancor. E non ti lasci ancor. Bella figliolella. destriero, una bestia viril che t'apprestai, e per Verona parti sarò mio pur domani. Or venite. Impossibile. Tremo. Va. Venti scudi e tu detto, eccone 10, e dopo lo apri presto, e qui rimane, sì, alla mezzanotte ritornerò. Care, ha gettato nel fiume basso io sono. No, il vuol fare io stesso. Sia il suo nome. Vuoi sapere anche il mio? Eccoli, punizion son io. La tempesta è vicina, più scura fia la morte. Maddalena! Aspettate, mio fratello viene! Che importa? Tuona! E pioverà fra poco. Tanto meglio, tu dormirai in scuderia all'inferno dove vorrai. Oh, grazie. Partite. Quanto al tempo? Sono 20 scudi d'oro. Ben felice d'offrirvi la mia stanza. Se a voi piace, posso vederla, andiamo. Ebben, sono con te. Presto, vediamo. Bene, bene, buonanotte. Signore, mi guardi Dio. Breve sonno dormiam, stanco son io. La donna è nobile, ma il piuma è la vento. Muta d'accento e di pensiero. Muta d'accento e di pensiero. La donna è ogni sua d'orrore. Gran Dio, che accadrà? Fratello, vero? Non fate sacco. Perché? Mentre il suo cavallo scocciato da me è gettato dal fiume. È vero, è vero. Eppure il danaro, salvarti scommetto, servandolo in vita. Difficile credo. Ascolta, anzi fatti ti svelo un progetto. Dei scudi già 10 da goppo ne hai visti. Finire con gli altri più tardi vedrai. Uccidilo i venti, allora ne fai. Così tutto il prezzo godersi potrà. Uccide che goppo, che diavolo dicesti? Un ladro son forse bandito, qual'altro cliente pare fu tradito, mi paga quest'uomo fedele m'avrà. Ma che razza fai rezzo? Che vai a? Fuggire con te solo. Mi sono perdiato, lasci fare. Sangue a lacrime piangendo sotto la roccia. attenta. Qual notte di mistero, una tempesta in cielo, in terra omicidio. Oh, oh mia Gilda, fanciulla, a me rispondi, l'assassino di spera. Oh! Nessuno, nessuno, mia figlia, mia Gilda, oh mia figlia. Mi chiama. Quella palla si muove, è viva. Oh Dio, mio beso è terra, mi guarda, mi conosci. Oh padre mio, qual mistero che fu si ferita? Thank you. là